Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tranquilli, oggi è l'ultimo giorno di terapia. Oggi vi dovrò somministrare l'ultima supposta culturale, che corrisponde, come sapete, naturalmente, in una bieca e subdola replica di programma già ascoltato, però è naturalmente in sé composta e pensata e studiata con una sorta di effetto ritardante a lento rilascio del benefico potere che avranno avuto in voi queste quattro giornate in cui avete preso delle supposte culturali. Sì, erano puntate già mandate, già andate in onda, si dice volgarmente che siano delle repliche, ma volete mettere la replica riproposta, rincorniciata, riattualizzata dal tempo che vi sto in questo momento dedicando per dare a voi un'occasione in più per ascoltare comunque questa puntata. Questa puntata era dedicata alla vita da camper. Chi viaggia con il camper naturalmente millanta una sua scelta poetica, scelta di libertà, scelta di anarchia. Io voglio avere la soddisfazione di andare e muovermi, e laddove vedo un posto a concio butto l'ancora, mi fermo e parcheggio il camper. In realtà dietro il viaggio in camper si nasconde un minimo di lecita, comprensibile e, ahimè, palese scelta micragnosa. Chi viaggia con il camper vuole risparmiare, non vuole spendere in alberghi, non vuole spendere in lussuosi resort, non vuole spendere in suite con piscina incorporata, vuole naturalmente economicamente viaggiare il più possibile. Caricandosi nel camper le provviste, gli oggetti per l'igiene intima, tutte le cose che servono per viaggiare senza spendere. Il camperista ha una sua particolare filosofia di vita, però, che noi abbiamo sviscerato e approfondito in questa puntata. Voi tutti domani potreste diventare camperisti. Voi tutti domani potreste improvvisamente trovarvi in una indigenza economica, non avete più casa, non avete più nulla, prendete un baraccone, un camper, un carrozzone e lì cominciate a stabilire la vostra dimora. E quindi potrebbe accadere a tutti un domani di essere camperisti. Oppure vi sposate un camperista, vi fidanzate con una camperista, decidete che il camper è la vostra nuova religione. Quindi perché non prendersi questa ultima grande occasione di avere fino in fondo seguito la terapia della supposta culturale per soli quattro giorni, che volete che sia, di fronte ai decenni per cui ho parlato in diretta ai microfoni di una radio. Alla prossima. Dobbiamo andare a prendere l'asta, normalmente posizionata in un gavone, è telescopica. In camper si sta bene, non ci sono problemi di scarafaggi. Quando ci mettiamo in cucina, rimuoviamo il repiano da tagliere in modo che non ci dia fastidio, creiamo aerazione perché in ogni caso utilizziamo una fiamma libera ed è ottimo anche per smaltire i vapori, e dispieghiamo le pentole che intendiamo utilizzare. Allora, il sensore di parcheggio che noi abbiamo acquistato su internet alla modica cifra di 8,80 euro. Il pacco è arrivato, eccolo qua, parking sensor, ora sto verificando il contenuto della confezione, centralina. La trasmissione di oggi è semplicemente la conferma di alcune mie curiosità, o perlomeno la soddisfazione di alcune mie domande. Ho pochissimi dati su quelli che sono i camperisti italiani. Gli italiani che scelgono di andare in vacanza dentro un camioncino attrezzato, dove immagino non sono mai entrato dentro un camper, o perlomeno non ho memoria di miei ingressi fisici all'interno di un camper. Immagino dentro ci sia di tutto, ogni ben di Dio: la cucina, il salotto, le camere da letto, il gabinetto, la doccia, la vasca con idromassaggio. Lo immagino come una sorta di antico fumetto, cartone animato, Don Topolino, Pippo e Paperino, che vanno in camper e c'era tutto dentro. Cambiava improvvisamente, si chiudevano i letti, usciva la vasca da bagno, si apriva una console, c'era il salotto, una cosa fantastica, meravigliosa. Immagino che dentro ci sia un concentrato di tutte le meraviglie possibili, sia un passaggio in un'altra dimensione. Io li guardo sempre dall'esterno, li guardo nelle file in autostrada, li guardo parcheggiati lungo i laghetti italiani, li guardo sulla riva delle zone boschive italiane, e vedo sempre persone felici, persone che sembrano appartenere a un'altra parte di umanità.